versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo mercoledì 17 dicembre alle 16.35 siamo in diretta agli studi di Milano di Radio 24, l'indirizzo della trasmissione versione di Oscar @radio24.it, il numero di telefono 800 24 00 24 per gli sms 349 238 66. Andiamo subito al punto per vedere se vi interessa chiamare. Siccome dalle 18 di oggi pomeriggio al Parlamento greco inizia il primo scrutinio per l'elezione anticipata del capo dello Stato e ci sono tre scrutini, quello decisivo, siccome ci sono maggioranze qualificate che nei primi due non verranno raggiunte, ma quello decisivo è il 29 di dicembre. Allora, perché questo richiamo all'elezione anticipata del capo dello Stato in Grecia? Perché il punto decisivo è che da oggi alle 18 cominciano a tutti gli effetti le prime prove ufficiali della possibile uscita di un paese membro dell'euro dall'euro stesso. Perché in concreto questa elezione anticipata del Presidente della Repubblica Greca è stata chiesta dall'attuale Presidente del Consiglio greco per mettere con le spalle al muro non la sua maggioranza, che è inferiore al numero di voti minimo anche al terzo scrutinio per eleggere il capo dello Stato, perché ce ne vogliono 180 e lui ce n'ha 155, Samaras, il Presidente del Consiglio greco. Lui lo fa perché delle due l'una: o trova 25 voti entro il 29 dicembre per eleggere un capo dello Stato e a quel punto proseguire. Ricordo a tutti che la Grecia è sotto il programma Troika e la Commissione europea la settimana scorsa gli ha consentito altri due mesi, proprio sapendo che ci sarebbe stata questa forzatura politica. L'alternativa è che se il governo Samaras non trova i voti per eleggere il capo dello Stato entro il 29 dicembre, a quel punto per la Costituzione greca automaticamente si va al voto anticipato, al voto politico, alle urne. E a oggi, come forse molti di voi sanno, in vantaggio nei sondaggi c'è il partito che da sinistra ha mangiato i voti del PASOK, cioè Syriza, il cui leader è Alexander Tsipras, e Alexander Tsipras pone come problema fondamentale la ristrutturazione del debito pubblico greco. Un ripudio, sapendo che l'Unione Europea e i tedeschi direbbero no, e a quel punto dicendo: signori, e a quel punto che volete da noi? Io non voglio uscire dall'euro, però o voi ci rimettete in condizione, il programma elettorale di Tsipras è tornare alle assunzioni pubbliche, ripristinare la tredicesima, eccetera eccetera, oppure, cari signori, se io vinco le elezioni sappiate che si mette in moto un certo processo. Se avviene questo in Grecia, cioè se il capo del governo non riesce a ottenere questi 25 voti che gli mancano per un capo dello Stato, vedremo come va oggi il primo scrutinio per capire se il suo candidato intanto prende i voti della maggioranza oppure no, ma se via via non ce la fanno e a quel punto vanno alle elezioni anticipate e si entra in questa atmosfera, purtroppo chi fa il giornalista e segue le vicende della moneta unica deve dirvi che l'Italia inizia a ballare sui mercati, perché come ovvio un conto è che questo problema, la ristrutturazione del debito pubblico e l'eventuale uscita dall'euro, lo ponga un paese che è poco più del 2% dell'euro area, altro conto è che lo ponga, sia pur senza dirlo esplicitamente, ma che diventi il rischio per un debito pubblico come il nostro, che è il quarto al mondo, di un paese che è il 17% dell'euro area. Allora, essendoci questa vicenda sullo sfondo, ho deciso che da oggi iniziamo una serie di trasmissioni per consentire a chi ha diverse opinioni su come procedere nei confronti dell'euro e nei confronti del debito pubblico di dare loro la voce e sentire voi come la pensate. Oggi cominciamo con il Movimento 5 Stelle. Sapete che il Movimento 5 Stelle ha deciso un'iniziativa, quella della raccolta di firme, ci faremo spiegare in che cosa consiste e perché, però da oggi, nei giorni di qui a fine anno, chiameremo anche la Lega, vi faremo ascoltare direttamente da loro, senza badare troppo alle mie idee, le voci di chi pensa che anche in Italia ci sia un problema o di democrazia, tanto per cominciare, o di democrazia in sostabilità economica, tanto per aggiungere, chi pensa che bisogna porlo esplicitamente il problema, anche se poi le conseguenze possono essere di un certo tipo. Io le temo molto, le conseguenze di questa roba. Vi ricordo che non ci sono modalità contrattate né di uscita dall'euro né di una fascia di oscillazione, se qualcuno vuole tornare a una moneta nazionale con l'euro, simili a quelle del sistema monetario europeo che c'erano prima per avvicinarsi all'euro. Si tratta di inventarsi tutto, ma di ricordare una cosa: guardate a cosa succede in Russia in questi giorni. Chi crede che uscire unilateralmente dalla sera alla mattina sia una cosa che non si abbatte sul risparmio dei cittadini, significhi evitare misure vincolanti sui capitali, chiusura delle banche e così via, si illude, perché le serie storiche ci dicono che i paesi che vanno in quelle condizioni, quando o salta un cambio fisso o si cambia la moneta, beh, se tutto non è ipercontrattato e con fior di sostegni internazionali sui mercati, si va diritti a un abbattimento del valore reale dei risparmi, dei patrimoni, dei redditi, e a vincoli molto pesanti sui capitali e sul sistema bancario. E questo è quello che succede prima che un eventuale ritorno a una valuta come la lira, che fluttua e quindi che bello, si svaluta e treniamo l'export, ma prima che si manifesti quello, intanto ci sono le conseguenze reali sui livelli di rivita, i risparmi, i patrimoni, le banche. Questo è uno scenario, non voglio impaurire nessuno, però a maggior ragione facciamo parlare direttamente chi ha delle opinioni. Quindi oggi cominciamo appunto con il Movimento 5 Stelle per capire le proposte, le opinioni su questo scenario e soprattutto sull'iniziativa che loro hanno intrapreso. Abbiamo con noi il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, deputato appunto dei 5 Stelle, Giorgio Sorial. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Salve, buonasera dottor Giannino. Allora, Giannino e basta, come è noto, ma detto questo, ci spiega in che cosa consiste, in che tappe, di che cosa c'è bisogno, quale appello lanciate all'opinione pubblica, il percorso che avete in mente di fronte a questo problema? Allora, il percorso innanzitutto è un percorso che prevede da un punto di vista un ritorno anche, diciamo, a una sovranità intellettuale delle persone. Ci ritroviamo ad operare in un contesto dove la politica e le istituzioni cercano sempre di più di togliere le scelte, la possibilità di fare scelte ai cittadini e di imporre il loro pensiero. Noi invece, come lei ben sa, pensiamo che i cittadini debbano essere sempre messi al centro delle scelte che vengono fatte e che impattano poi direttamente sulle loro vite. Pensiamo che tra l'altro anche la scelta di una moneta unica dovesse passare direttamente attraverso un pensiero dei cittadini che si potessero esprimere da questo punto di vista, e tendiamo a permettere a tutti i cittadini, attraverso dei nostri portali sulle proposte di legge, ad esprimere il loro parere. Per questo motivo, pur avendo naturalmente un pensiero critico in merito a quello che ha fatto la moneta unica, l'euro, permettiamo ai cittadini di firmare un referendum e potersi esprimere e potersi informare, innanzitutto capire cosa è successo da quando è stato introdotto l'euro, capire qual è stata la grande catastrofe a cui hanno dovuto in un qualche modo adeguarsi negli ultimi anni, e permettere a loro in qualche modo quindi di ragionare, di scegliere per l'appunto sul referendum di uscire eventualmente dall'euro. Questo è il nostro pensiero a questo punto di vista, dal punto di vista per l'appunto della logistica. Noi abbiamo iniziato la raccolta firme il weekend scorso, il 13-14 dicembre, abbiamo già ottenuto il livello di firme necessario per poter presentare la legge di iniziativa popolare, si tratta di 50.000 firme che abbiamo già superato nello scorso weekend, ma continueremo a raccogliere le firme. Perché spieghiamo la raccolta delle firme, intanto il primo passo: voi state raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare che attraverso la quale fare cosa? Attraverso la quale per l'appunto indire un referendum per chiedere ai cittadini italiani se hanno intenzione di rimanere all'interno e continuare ad avere applicato l'euro come moneta nazionale, o se impegnare i governi ad attuare tutta una serie di politiche per tornare a una moneta nazionale, e quindi con tutte le questioni che riguardano anche una banca pubblica nazionale, e quindi diventare un paese che all'interno della comunità europea è un paese in deroga, come si può, come ci sono anche altri paesi che sono per l'appunto paesi dell'Unione Europea, ma non che non hanno acceduto alla moneta unica. Esatto, allora, prima di arrivare poi a che cosa pensate davvero, se siete per uscita e come, due domande a cui rispondere per che la gente capisca bene se andare a darvi la firma oppure no. Primo, bisognerebbe, come sa, noi abbiamo dei vincoli in Costituzione su delle materie che sono sottratte al referendum. Non mi piacciono neanche a me quelle materie, io penso che bisognerebbe cambiarlo quell'articolo della Costituzione, e purtroppo invece non è soggetto alle modifiche che sono sottoposte al Parlamento, perché per esempio io trovo incredibile che non si possa fare un referendum in materia fiscale, e altrettanto la penso sul divieto di referendum abrogativi in materia di trattati internazionali, e qui siamo esattamente in questo ordine di problema. Quindi bisognerebbe modificare la Costituzione per farlo questo referendum. Allora, su quel disegno di legge di iniziativa popolare su cui raccogliete le firme dovreste allearvi con qualcuno, e allora io le faccio intanto queste domande, adesso sentiamo i 60 secondi di informazione stradale e poi lei mi dà le due risposte. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Iniziamo da oggi una serie di puntate, almeno una volta a settimana, visto che in Grecia si inizia a poter ballare un rischio di una richiesta sulla ristrutturazione di un debito pubblico sovrano che già è stato in realtà ristrutturato dopo la crisi del 2012, che potrebbe sfociare in tensione molto forte sui mercati, e anche mettendo sul tavolo una cosa: o ci aiutate e fate come diciamo noi, se vince Tsipras, oppure signori, poi l'euro va in pezzi, iniziamo noi e poi il turno di altri e noi finiremo la tensione. Oggi 5 Stelle ci spiega l'iniziativa, la raccolta delle firme per questo disegno di legge iniziativa popolare. Però ho fatto una domanda: bisogna in quel caso cambiare la Costituzione per arrivare al referendum e quindi allearsi con qualcuno. Che mi dice, onorevole Sorial? Le dico che questo referendum è un referendum consultivo, e lei intelligentemente ha detto per l'appunto che è una riforma costituzionale. Infatti il referendum consultivo per l'uscire dall'euro si approva attraverso una legge costituzionale fatta ad hoc. C'è già un precedente: nel 1989 per l'appunto in Italia si era tenuto il referendum contestualmente alle elezioni europee proprio dell'89, esatto, per sentire il parere dei cittadini sul conferimento o meno del mandato costituente al Parlamento europeo. Fatti. Noi stiamo utilizzando la stessa modalità. Ma la cosa bella, le dirò, dottor Genio, è il fatto che lo scorso weekend io stesso e molti dei miei colleghi parlamentari eravamo presenti a raccogliere direttamente noi le firme, in alcuni casi sotto la pioggia e al freddo, e ci siamo ritrovati a firmare persone che avevano, i cittadini che avevano, le più disparate idee politiche. Stiamo parlando di persone che avevano, ci dichiaravano tranquillamente il fatto che loro avessero votato un partito invece che un altro. Naturalmente una grandissima presenza dei nostri attivisti e dei nostri simpatizzanti, ma ci ha veramente fatto piacere vedere dei cittadini che in realtà magari non ci avevano votato, ma su questa battaglia erano assolutamente... No, ma credo, guardi, credo anch'io, io da, lo dico semplicemente, avendo le trasmissioni tutti i giorni e il sabato 2 ore, arrivano sms come adesso e lettere da gente che ha fatto le scelte politiche o anche di astensione le più disparate. Sull'euro ormai è una questione trasversale, la paura di come affrontarla e i giudizi da dare su questi 10 anni. Io non è un mistero, penso che abbiamo problemi da 20 anni, da ben prima dell'euro, sulla produttività e così via, ma lasciamo perdere come la penso io. Ma con chi vi allere? Secondo lei sarebbe un po' difficile, mi pare di capire, in Parlamento, una volta che c'è l'iniziativa di legge popolare che venisse messa a quel punto all'esame delle Camere, non beccare la maggioranza, perché dice c'è una pressione popolare così forte che anche se le altre forze politiche non sono vicine ai 5 Stelle, però sarebbe difficile però non votarlo, ho capito bene? Corretto, è proprio così. Il fatto di aver visto nello scorso weekend tante persone di differenti idee politiche e il fatto che noi continueremo a raccogliere queste firme nei prossimi mesi ci permetterà di arrivare in Parlamento con un bagaglio di firme e il supporto proprio di tutti i cittadini dei vari schieramenti politici con varie idee politiche, e questo è il ruolo dei cittadini che dovranno naturalmente fare pressione in modo che i loro partiti portino avanti una questione così fondamentale come il referendum consultivo. E noi siamo sicuri che per l'appunto di fronte ha una tale evidenza, il fatto che noi nello scorso weekend abbiamo già raccolto le 50.000 firme dimostra, per l'appunto, come diceva anche lei, come molti cittadini. No, è un tema sentitissimo, c'è poco da fare. Questa idea, ma nel referendum consultivo, ipotizziamo quindi che, insomma, voglio dire, voi le firme le raccogliete, quindi non c'è problema. Vediamo poi se va, quando ve lo metteranno, perché c'è bisogno appunto del sì degli altri, l'ufficio di presidenza all'esame del Parlamento. Quando si tenesse, la vostra posizione quale sarebbe? Quando si svolgesse il referendum, sì. Certo. Noi siamo molto critici con l'euro. Lei prima citava per l'appunto il caso dell'attualità greca. Diciamo che la Grecia è stata la prima vittima di tutta una serie di politiche economiche che in realtà sono completamente sbagliate, tra cui anche purtroppo come è stato applicato alla moneta unica. L'euro è stato applicato, una moneta unica, su economie completamente differenti, sì, su economie questo un po' più strutturali, sono d'accordo, economie un po' più, come capisce, un po' più deboli. Però aspetti, qui consentiamo, prego, a chi è a casa di capire un secondo. Tutte le grandi aree monetarie unificate, cioè grandi, ci sono aree continentali che hanno una moneta unica, questo vale per la Russia col rublo, vale per la Cina con il renminbi, vale per gli Stati Uniti col dollaro. In quelle aree ovvio che ci sono, le economie territoriali sono estremamente diverse, ci sono paesi che hanno concentrazioni specializzate industriali, alcune parti che vanno benissimo, altre meno bene e così via. Il problema è che lì i mercati sono unificati, i mercati dei beni, dei servizi e del lavoro. Che cosa significa? Che le diverse curve di costo e i diversi tassi di sviluppo a seconda di come funziona il mercato si autoequilibrano. Da noi i mercati dei beni, del lavoro, dei servizi, tranne che quelli finanziari, restano separati, quindi i costi non si possono autoequilibrare. Io, se faccio la partita IVA e libero professionista qua, non posso farlo automaticamente in un altro paese europeo. Ci piace credere che sia vero, ma nella stragrande maggioranza dei casi non è vero. Questo significa che le economie restano non convergenti, restano separate, quindi un unico tasso di interesse applicato così, anch'io sono d'accordo, ha delle conseguenze asimmetriche, come si vede, e noi avevamo un problema da prima, quindi ancora più asimmetrico. La Grecia ha mentito di 15 punti sul suo deficit pubblico, però è 15 punti. Mi permetto anche di dire, da questo punto di vista, naturalmente, per quanto riguarda la Grecia, c'è stata una responsabilità naturalmente della Grecia, ma poi le ricette della Troika, come ben sappiamo, hanno portato tutto e hanno accelerato il processo per la Grecia. Però mi lasci dire, perché io concordo appieno il fatto che in altre aree monetarie ci siano mercati che siano in qualche modo unificati, e questo era l'intento iniziale di quella, solo che bisognava farlo prima, perché ma non è stato fatto. No, vero, verissimo. Non è stato fatto prima di applicare la moneta unica. Allora, invece la moneta unica avrebbe bisogno di una vera unione fiscale, una vera unione di bilancio europea, e da avere anche naturalmente un debito che sia condiviso tra tutti gli stati membri. Allora, ipotizziamo che al referendum la vostra critica, che a quel punto significa vinca, a quel punto come si fa? Bisogna nel frattempo restarci e contrattare delle procedure di uscita, oppure uscire e basta, come mi pare di capire dice Salvini, ma poi sentiremo anche lui nelle prossime settimane. Voi come la pensate? Noi abbiamo 17 grandissimi europarlamentari nell'Europarlamento che sono stati votati ed eletti con il Movimento 5 Stelle, che sono l'unica forza in questo momento all'interno dell'Europarlamento che stanno facendo questi ragionamenti e stanno dicendo a tutti gli altri deputati, anche italiani, degli altri schieramenti politici, come fare e come per l'appunto applicare tutta una serie di norme. Quello che per l'appunto ricordavamo è il fatto che ci sono attualmente dei paesi che sono dei paesi chiamati con deroga, che sono all'interno dell'Unione Europea ma non hanno la moneta unica. Però il problema è che per diventare come loro, siccome noi per il momento ce l'abbiamo, nel processo di uscita, dove, ripeto, bisogna tornare a vincoli su capitali, perché altrimenti c'è un deflusso pazzesco di tutto, lì o noi abbiamo la forza di imporre all'Europa delle procedure contrattate, o altrimenti non è che diventiamo come uno di quei paesi da un giorno all'altro. Lei su questo come la pensa? Penso che la forza sta anche nella credibilità del nostro pensiero e del fatto di avere il popolo alle nostre spalle, i cittadini alle nostre spalle. Sì, ma sono i cittadini che rischiano con i risparmi. Guardi, noi pensiamo, ecco, da questo punto di vista qua ci sono anche degli studi, non lo diciamo solo noi, ma naturalmente sui risparmi e mutui verrebbero convertiti nella moneta e gli stessi stipendi delle famiglie, i ricavi. Non c'è dubbio, ma se li convertiamo in lire, con la lira che perde il 40%, ne perderebbe il 35%, c'è chi dice il 30%, il 35%. Il problema è che non è che non valgono, non è che non valgono di meno rispetto alle altre valute più forti, cioè incorporano un danno molto forte. Come vedete, i temi sono molto ingenti, però a me interessava che vi spiegasse direttamente i 5 Stelle. Se volete andare a firmare, anche se le firme ci sono già, andateci, pensateci, sentiremo più punti di vista, ci torneremo molte volte in futuro. Intanto grazie all'onorevole Soriano. Io, se posso solo concludere con un'ultima battuta, guardi che il danno che c'è stato arrecato dalla moneta unica maggiore rispetto a qualsiasi altra cosa, e la svalutazione non creerebbe questi problemi, ma anzi rimetterebbe in moto tutta una serie di investimenti. Nel medio lungo lo abbiamo già, guardi, con la liretta noi siamo finiti 5 volte il Fondo Monetario in 15 anni in ginocchio a impegnare le riserve, però ne parleremo e ne riparleremo anche con voi. Intanto continuate con Radio 24, appuntamento domani. La versione di Oscar.